Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera da Maurizio Calzavara, buonasera da Rock Wave, come sempre, come ogni mercoledì, a quest'ora, forse con qualche minuto di ritardo perché c'era la pallavolo, facciamo un live, presentiamo una band che viene a suonare i loro pezzi, presentare il loro disco e parlare di loro. Buonasera ai Revival. Buonasera. Buonasera. Avete fatto buon viaggio, siete vicini, sì, sì, non tanto distanti. Non veniamo da molto lontano. Esatto, no? da Vicenza mi pare. Da Vicenza io e da... Provincia di Padova. Vabbè, siamo qua. Benissimo, live, perché bello, mercoledì c'è da suonare dal vivo, ma per sentire il live, spieghiamo un po' il curriculum, com'è nato l'idea, com'è partita l'idea di questo duo da parte di Franco Gallo e di Gianluigi De Martis. Stasera Gianluigi però porta solamente la chitarra, di solito suoni la tastiera. Sì, io insomma di solito suono tutte e due, anche se il mio strumento principale è più la tastiera e il pianoforte. Che è pianoforte. Ecco. Mentre Franco, diciamo, chitarra. Franco chitarra, sì, è basso. È basso, chitarra basso. Ecco. Però stasera per motivi proprio di spazio la tastiera è molto grande. Sì, e comunque insomma diciamo sono brani che dal vivo in versione live vengono anche meglio con la chitarra. Forse, esattamente. Da dove è nata l'idea, Franco, di questo duo? Tutto che hai degli trascorsi musicali molto grandi, per tanti anni hai suonato. Sì, io ho iniziato la mia, tra virgolette, carriera musicale nel lontano 90, militando su un gruppo di Padova chiamato Flying Fawcett. E faceva musica beat psichedelico, interamente prodotto, brani fatti da noi, precisamente da chi l'ha creato il gruppo, che è un italo-americano, diciamo, di Padova qui, e che abita a Padova appunto. E ho suonato con questo gruppo 20 anni circa, in giro per l'Italia, circa. Ma sì, nelle tre Venezie, sì, possiamo siamo dire. Andati principalmente in Veneto, quasi tutto, poi siamo stati in Emilia Romagna, a Bologna e in Trentino, diciamo, più che altro era l'epoca dei centri sociali, quindi c'è l'avvio, diciamo, di questa forma, diciamo, di location, ecco, diciamo, sì. chiamiamola così. E quindi si battevano tutti questi posti e la nostra musica era abbastanza apprezzata perché nessuno all'epoca faceva questo, proprio un psichedelico abbastanza, a volte suonavamo anche in tre, quindi era abbastanza ricercato. E non erano le solite cose, no, era suoni fatti anche con strisciando le chitarre, ecco, bello quello. E suonando con i gomiti sulla tastiera, facciamo cose abbastanza alla Emerson praticamente, sì insomma, cose abbastanza spavalde, diciamo, e siamo un po' apprezzati per questa cosa e mi è piaciuto tanto, è stata un'esperienza che dopo ha portato con il tempo a maturare determinate altre dinamiche musicali e alla fine mi trovo qui con Gianluigi. Ecco, Gianluigi ha un curriculum, anche se è un po' di tempo che non suona, ma tu avevi suonato con altri gruppi tempo fa. Sì, io no, diciamo che io fondamentalmente parto come solitario, diciamo, io ho fatto delle serate di piano bar e per un certo periodo di tempo ho fatto più che altro quello. Poi ho incontrato, tramite parenti, diciamo, questo gruppo di Padova che per gli ambienti, per gli addetti ai lavori, per i fans è abbastanza conosciuto, che si chiama White Blues, che è specializzato in cover dei Beatles. Ecco. E allora mi sono trovato con loro per un certo periodo, ci troviamo spesso, ecco, no, e poi abbiamo fatto qualche serata insieme. Ma insomma, qualche concerto, perché ovviamente quello principale è stato a Montegrotto e non era di sera, ma era insomma sì di sera, sì, non tardi, ecco. Tutti i pezzi dei Beatles, chiaramente tutto il repertorio. No, non tutto il repertorio perché sono circa 280 canzoni. Certo. Loro avevano un repertorio, sono praticamente 40 anni che suonano i Beatles da quando erano ragazzi. Io mi sono aggregato dopo come tastierista perché era quello che loro non avevano, un tastierista. Mancava il tastierista, ecco. Dopo per alcuni motivi vari, logistici, mi sono staccato, ho ripreso a fare cose da solo, a fare anche composizioni così. Poi mai esternate, diciamo. Poi c'è stato l'incontro con Franco. Ecco, com'è stato l'incontro con Franco? L'idea di... L'incontro con Franco è stato tramite un amico comune, che è qui presente in studio, se posso salutarlo. Certo, certo. Anche salutare. Perché, diciamo, da lui è partita la cosa, è Fabio. E, ecco, che ci ha... tramite una serata ci ha fatto conoscere. E io, appunto, ero reduce da questa esperienza col gruppo Beatles e... lui anche era un po' uscito, cioè lui tu hai portato il bagaglio di Beatles, lui ha portato le cover psichedeliche. Beh, insomma, non solo il bagaglio di Beatles, perché altro me l'hanno dato quegli anni, sì, hai che mi hanno fatto rivivere certamente un hai portato le tue esperienze, sì, Franco ha portato le sue, e vi siete uniti per fare delle cose vostre, questo sì, è importante. Cioè, in un primo momento l'idea era quella di fare serate. Ah, chiaramente. Quindi partita con l'idea di fare serate, quindi abbiamo fatto cover, ci siamo costruiti da soli il repertorio, e che appunto rientrasse quel concetto di revival che noi, sì, esatto, il nome che ci siamo dati da subito. Quindi musica degli anni 70, sì, più che altro, qualcosa dai 60 e poi anche 80 e via via. Ecco, e dopo è partita questa idea di fare pezzi vostri, praticamente. Nostri, canzoni, insomma, canzoni pop con qualche pennellata rock qua e là. E così abbiamo fatto il primo CD. Che si chiama L'Essenza. Che si chiama L'Essenza, che è quello che presentiamo stasera. E ne avete già un altro pronto? Abbiamo già un altro pronto a livello di bozza e che stiamo registrando adesso, insomma. Perfetto. Vediamo di farlo uscire l'anno prossimo. Benissimo, quindi autoprodotto da voi, assolutamente. Autoprodotti assolutamente, anche perché trovare produttori non è facile. Esattamente. E poi ritengo sia più gratificante prodursi, sì, da solo. Sì, non c'è la pressione. No, c'è la libertà totale. No, infatti, sì. Però da una parte c'è la libertà totale, però da una parte c'è la mancanza di, come si dice, di distribuzione, mancanza di veicoli. Sì, sì, cioè, il problema è quello, c'è in ogni caso, perché trovare qualcuno che ti distribuisca oggi come oggi è un grosso problema insomma, con la crisi del mercato discografico e i dischi non si vendono più, assolutamente. Sì, i dischi se ne vendono pochi, anche per chi è famoso, insomma, certo, quindi figuriamoci per chi non lo è, ecco, quindi comunque è una noi cosa siamo positiva. Sempre è una cosa positiva creare un disco, noi lo abbiamo per passione, andiamo avanti, certamente. Ok, allora facciamo come sempre la nostra tradizione, apriamo la finestra, presentiamo il primo pezzo da CD, sì, che è la traccia numero uno, mi pare, sì. Allora la sentiamo prima e poi ne parliamo ampiamente. Ok, okay. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Tra la gente, con lo sguardo verso il basso, limpidi e sereni, scorrevano i pensieri per le strade sconosciute. Trovi sempre la tua meta. Luci della sera si sono appena spente, ma la mano sempre tesa si protende verso il cielo, e la luce si riflette e si parte nella notte. E i contorni della vita diventano più netti. Nasce come un fiore innaffiato dalla pioggia, la voglia di trovare la nuova dimensione. Thank you. nasce come un fiore innaffiato dalla pioggia. La sua voglia di trovare una nuova dimensione. Una dolce melodia accompagna per la strada, perciò cosa vuoi che sia, se la vita è un poco amara. Ora l'aria è più pulita e la gente è ancora riposa, e le luci del mattino si sono da poco accese. Ma la mano sempre tesa si protende verso il cielo, e una luce si riflette e si perde nella notte, e i contorni diventano più netti. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Diretta a rockway.altervista.org, stasera ci possono vedere e sentire. Ringraziamo il nostro staff, Michele Tosoni in regia, Sergio Bortolami e Roberto Baldi che hanno dato una mano alle telecamere, e il nostro direttore artistico che è Alberto Prisco. Parliamo di questo pezzo, parliamo delle tastiere che tu hai usato, a questo mi interessa. Come l'hai creata? Le tastiere, che funzione hanno nella band, nel gruppo, nel duo? Beh, le tastiere nella band, come penso in quelli di molte altre band, hanno una funzione fondamentale, che è quella di creare prima di tutto un tappeto di accompagnamento, di armonico, e poi di creare anche una contromelodia, un controcanto che faccia da appunto da contraltare alla melodia principale della voce. Parlava prima Franco a microfono spento della serie di tastiere, della serie di suoni che tu hai creato, che tu hai avuto l'idea di proporre. Beh, creati io. No, l'ho creato. Adesso non facciamo pubblicità, comunque io ho una tastiera, ovviamente, di un professionale certo tipo, che contiene parecchi suoni, e certo si tratta tipo di sceglierli, di mescolarli, di calibrarli con i vari effetti. Insomma, non li ho creati io, certamente. Il testo è nato prima della musica o viceversa in questo caso? Sì, in questo caso è nato prima della musica. Ispirandosi al testo è venuta fuori una... Non abbiamo ancora detto il nome del pezzo però. Sì, il pezzo si chiamava Nella Notte. Nella Notte, perfetto. Ed è un pezzo che è sempre ispirato a quello che è il leitmotiv di tutto l'album, che è appunto quella di ricerca esistenziale. Quindi un concept album, potremmo dirlo sì. Così, se siete sì, d'accordo? Sì. C'è questa ricerca di se stessi, questa scoperta di nuovi orizzonti, e poi ovviamente ci sono anche... c'è sempre il condimento con l'aspetto romantico, sentimentale, insomma, che quello non guasta mai, insomma. La melodia è fonte di tutto praticamente. Sì. Pop melodioso, il pop è un po' melodico. Il pop è melodico, sì, assolutamente, sì. Però non sdolcinato, quello è importante, perché mentre si non parla... troppo, diciamo. No, insomma, esattamente, mentre si parlava, mentre prima di andare in trasmissione, mi stavate raccontando una cosa interessante, cioè non sono stati pezzi buttati là così, sono pezzi pensati no, questi sono stati da un po' di tempo, sì, cioè non sono stati così buttati così per fare chiudere un 10 pezzi di un CD, no, sono stati pensati, costruiti con un certo modo di fare. Sì, infatti, cioè non è stato il classico lavoro dove c'è un pezzo trainante, lead single, come si chiama in termini commerciali, e poi altri 9 pezzi poniamo. Fatto per riempire gli spazi. Esattamente. Ecco, abbiamo cercato di fare tutti i pezzi. Cioè, hanno una propria funzione. Hanno una propria funzione, sono inseriti in una certa. Il pezzo nasce da un riff, come nasce praticamente? Un accordo, come si sviluppa? cioè, un'idea, diciamo, della lirica. Della, della lirica, sì, va bene. E poi c'è l'abbinamento appunto con la musica, ricercando appunto accordi melodici più, diciamo, risonanti possibili, in modo da dare un po' di contorno, diciamo, a tutto quanto, senza ricercare, diciamo, cose un po' difficili. In questo caso, anche perché la lirica comportava un testo molto naturale, sì, molto, molto libero, molto, molto libero, con una linea centrale, dopo ognuno può interpretarla come vuole, può metterci dentro, diciamo, nel pensiero quello che vuole. Certo, certamente. Però, diciamo, sono stati accordi nati sul momento, diciamo, in questo caso, senza tante difficoltà. Il problema più grande è quello, diciamo, di riuscire, come diceva prima Gianluigi, di cercare suoni con le tastiere e con il pianoforte abbinato, in modo da creare un sound il più possibile, diciamo, armonico il più possibile, insomma, che possa trovare, cercare una melodia, insomma, sì, praticamente, sì, sì, possa catturare, sì, praticamente. Sì, sì, sì. E come mai, come primo pezzo, questo titolo e questo pezzo? È una scelta oppure così? Come apertura del CD lo ritenevamo il più, più adatto. Esattamente, cioè doveva essere aperto in questa, sì, maniera, sì, sì, sì. 10 pezzi, cioè una serie di momenti, praticamente. Sì, sì, esattamente. Sono tutti, diciamo, sono 10 canzoni, io le chiamerei tutte 10 prime, nel senso, non che vanno a supportare una canzone che è un hit, diciamo, no? Certo, cioè, proprio, non... sono tutte hit per noi, insomma, sì, per voi, ecco. Sì, chiaramente. Per noi, insomma. Per noi, dopo, chiaramente. Chiaramente, cioè, non c'è una che predomina sull'altra. No, no, no. Anche se uno può fare questa idea, che uno può predominare sull'altra. Sì, no, l'idea è quella di fare brani che il brano prima non deve schiacciare quello dopo. Ho capito. Cioè una linea continua. Una linea continua, un mantenere alto il livello, diciamo, capisci? Benissimo. Ok, allora facciamo così, sentiamo un altro pezzo, che è sempre la traccia numero 2, che si chiama... Rise Above, questo in inglese. Ecco, sì, non abbiamo detto che questo album contiene pezzi in italiano e pezzi in inglese. Questa è stata una scelta un po' di mescolare queste due lingue, adesso non so quanti lo facciano, ma diciamo che sia io che lui abbiamo un po' un trascorso musicale che è più anglosassone, diciamo, sì, anglo-americano. Però abbiamo voluto creare dei testi anche italiani, quindi abbiamo fatto tutte e due le cose, insomma. Perfetto, la sentiamo e poi ne parliamo, sì, ancora. Rise Above. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Qui, io sono qui, malinconicamente qui, fermo nelle mie pause del tempo, coi pensieri nel mio freddo deserto. Sì, mi trovi qui, indissolubilmente qui, non è altro che un filo mai spezzato, una foglia su un ramo abbandonato, ma ora non ho più libri e giornali da sfogliare. Se solamente le tue dolci note da suonare, se tu lo vuoi le puoi ascoltare. Ho solamente la voglia di prenderti e volare. Tu non esitare, devi solo lasciarti andare. sei, non cambiare mai, resta dove sei, non muoverti se puoi. Qui, adesso qui, con gli occhi chiusi qui, scherzo e gioco con te nella mia mente, frasi dette con gioia e mai spente. Ma ora non ho più storie e messaggi da inviare, ho bisogno solo di poesie e canzoni da inventare e fogli bianchi da riempire. Sulla mente là, voglia di prenderti e volare. Tu non esitare, devi solo lasciarti andare. Radio Rock Wave, l'onda del rock. I nostri ascoltatori più attenti avranno detto: ma questo non era un pezzo in inglese. Effettivamente non era un pezzo in inglese, perché ho deciso io di cambiare all'ultimo momento la scaletta, perché mi piaceva la chitarra un po' cleptoniana che tu hai suonato. Innanzitutto, come si intitolava il pezzo? Il pezzo si chiamava Qui. Esattamente, che è un pezzo non in inglese, è un pezzo di italiano. Penso che se ne siano accorti che non è in inglese. Però l'idea di cambiare la scaletta all'ultimo momento, ripeto, è stata fatta perché a me interessava questa strascicata solista alla fine del pezzo. Sì. Adesso me lo dici il perché l'hai fatta in questa maniera. Questa un po' cattivella, dai. Cattivella tra virgolette, sempre. Per variare un po' sulla melodia, sul trend melodico. Sul tema, diciamo, della canzone, c'è un intermezzo, diciamo, di chitarra elettrica, se non si avete notato, diciamo, distorta. E poi alla fine c'è questo solo che va in deadening, diciamo, a... Per i temi tecnici cosa hai detto? In? No, devi spiegare agli ascoltatori. Ending, poi il finale. Ecco, il finale. Perfetto. Perché c'era, cioè, finire la canzone con il parlato, diciamo, non aveva senso. No, esattamente. Richiedeva una coda strumentale e quindi abbiamo fatto una solo, nella più classica delle maniere. E Gianluigi ti ha lasciato la possibilità di farlo, perché le tastiere si sono un po' attenuate. Sì, le tastiere, le chitarre di supporto con il basso hanno accompagnato da solo nella melodia, diciamo, principale della canzone. Quindi è un pezzo abbastanza, non dico complesso, ma strutturato in diversi momenti. Sì, infatti si sentisce il pianoforte che interviene, diciamo, in alcuni fraseggi, diciamo, di passaggio delle strofe, è abbastanza marcato, e più tutte le tastiere di sottofondo che accompagnano il brano. Anche qui è stato un lavoro abbastanza impegnativo da parte di Gianluigi, anche nello studio dei suoni, perché diciamo non è che la tastiera è sempre quella, i suoni cambiano a seconda appunto della scelta che si fa in base alla canzone, chiaramente, insomma. Mi interessa lo studio dei suoni, ha detto Franco. Che studio hai fatto per fare questo pezzo? Beh, insomma, studio dei suoni è chiaramente prima di tutto lo studio armonico, ovviamente. La tastiera in questo pezzo ha un ruolo fondamentalmente armonico, quindi ci sono degli accordi e poi si tratta semplicemente di provare a inserire questo, inserirli e si riascolta e si vede come va, si prova, si cambia qualcosa, si lavora con la console. Quindi è stata buona la prima oppure no, avete provato? No, quasi mai. Che sia buona la prima. No, io ho chiesto. Ho chiesto. Può capitare. Può capitare. Però, un pezzo ragionato, studiato bene, finché era a posto, tutti i collegamenti erano perfetti, allora si è inciso praticamente. Sì. Cioè, può succedere che sia un momento artistico buono, che teniamo buono quello, perché... Allora bisogna fissarlo, però è difficile. Insomma, in genere si prova, poi si prova sempre, si registra tutto. Fissarlo, esattamente. Non so come fate voi, io ricordo che alcune band venivano qua... uno aveva un'ispirazione, telefonava l'amico all'altro lontano o non vicino e diceva: io ho sentito, ho questa idea. Sì, è successo anche questo. Vedi, lui mi ha telefonato un paio di volte dicendomi: ma lì ho qui manderei. È una cosa bella. Sì, ma è normale, penso, no? Quando si lavora con fervore. Ma i non musicisti, o meglio i musicisti un po' lontani, cioè chi suona qualche volta, ma chi suona spesso, queste idee devono essere ghermite subito, prese immediatamente. Vengono perse e non si disperdono. Esattamente, è fondamentale. Io cito sempre un aneddoto che mi ha raccontato lui, Finardi spesso e volentieri viaggia in treno, e lui diceva che in treno aveva un taccuino dove si segnava i momenti che proprio nella mente scorrevano, e segnava le note. Sì. È una cosa incredibile, bellissimo, secondo me, una cosa meravigliosa. Ok, abbiamo preparato l'ambiente per suonare il primo pezzo live. È una grande cover di Michael Stipe e soci. Questo perché Losing My Religion, un pezzo meraviglioso dei Rem? Beh, è un pezzo che fa parte del nostro trascorso di cover. Di rocchettari, possiamo dire di rocchettari. No, ma io non ho, forse lui sì. Ma rocchettari è più positivo. Lui è più rocchettaro di me, certamente, come retroterra, come certo, trascorso. Non è un pezzo rocchettaro, Losing My Religion, è un bel pezzo di accattivante, trascinante. Per me è un pezzo storico, una pietra miliare, per dire, è stato probabilmente uno dei pezzi più famosi di questo gruppo. Certamente, Rem è un pezzo non è stato molto longevo, però... ha avuto un grande successo. È un pezzo che nei concerti fanno sempre, assolutamente, un pezzo desideratissimo. Tutti vengono trascinati con Losing My Religion. Adesso trasciniamo i nostri ascoltatori di Rockwave, cosa dite? Va bene. Possiamo tentare, no? Però cominciamo con quello. Cominciamo con Losing My Religion, sì. Rockwave. L'onda del rock. L'onda del rock. Your whole life is bigger. It's bigger than you, and you are not me. The less that time will go to distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I've said it all. That's me in the corner, that's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you, and I don't know if I can do it. Oh no, I say too much, I haven't said enough. thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper of every waking hour, I'm choosing my confession, trying to keep an eye on you, like a herd lost and blind and full. Oh, oh no, I've said too much. I said it all. Consider this. Consider this a hint of century. Consider this sleep that brought me to my knees. Stay here, what if all of this fantasies come flailing round? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. But that was just a dream. But that was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. That was just a dream. Try, cry, fly and try. That was just a dream. Just a dream. Just a dream. Blue Radio. Blue Radio. SMS 346 2320 033. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, ci siamo. La nostra fotografa ha ripreso tutto. Hai ripreso tutto, vero? Mi pare giusto. Con i Rem bisogna sempre riprendere tutto, chiaramente. Sì. Lose My Religion, la versione degli Revival, fatta molto bene, molto acustica, due chitarre acustiche. E l'ha fatta anche elettrica quando suonate, oppure così acustica? No, 12 corde e 6 corde. 12 corde e 6 corde. Sì. Esattamente. Si chiama così il brano, anche per renderlo molto più, diciamo, house, come, no? Sì, esatto, sì, ho capito cosa intendi. Folk, ecco. Folk, ecco, folk. Meglio folk, possiamo sì, dire. Folk, sì, house, un'altra cosa. No, house vuol dire il casalingo, no? Perché sì, uno potrebbe passare la musica house, che non c'entra niente in questo caso. Quindi un... molto folk, folk. Beh, Mike Stipe probabilmente aveva quelle di intenzione, di farlo folk. Chiaramente poi si è sviluppato in... certo, ma parte dal folk, certi accordi amano, si avvicinano, sì, al folk. Sono giri di chitarra, diciamo, un po' scontati, però messi in un certo modo danno proprio l'idea del folk. Ecco, come mai avete scelto i Rem? Io che apprezzo totalmente quella scelta. Come mai i Rem? Ma perché era un pezzo facile da fare, diciamo. Era un pezzo rappresentativo. Era un pezzo rappresentativo. Molto accattivante, si prende subito. E trascinante allo stesso tempo. Esattamente. Ok, e quindi le cover, fate fare le cover, però l'idea vostra è quella di portare avanti un discorso vostro, i 10 pezzi vostri. Adesso infatti presentiamo un brano dal vivo qui del nostro CD, sempre l'essenza, e il brano si intitola Semplici Parole. Prima di parlare di questo pezzo, quanto ci avete messo a incidere l'essenza? Com'è stato l'iter? È stata una cosa veloce o... Beh, insomma, non molto ponderata. Cioè, intanto teniamo conto che noi non è che lavoriamo. Beh, chiaramente, giorno, è solo, insomma, per passione, chiaramente. Sì. Ponderata, è stata una cosa ci ponderata. Troviamo, sì. Quando capita, insomma. Beh, no, ci troviamo regolarmente, ecco, poi lavoriamo anche singolarmente, insomma, comunque sì, cioè, siamo andati avanti abbastanza. Ma è bello, ecco, una cosa che apprezzo molto da tutti i musicisti che non fanno i professionisti, cioè che lavorano e poi fanno musicisti per passione, è quello di ritrovarsi, trovare il tempo per ritrovarsi e cominciare a suonare e a provare. Quello è bellissimo, secondo me. Sì, sì. È la musica dà una forza, una straordinaria, va fuori di tutti i tempi, cioè va sopra di tutti gli impedimenti, supera tutto. Siete d'accordo? Unisce. È una delle cose che uniscono di più. Esattamente, unisce tutto praticamente. E ti libera un po' la mente anche. Esatto, lo diceva anche Finardi, a proposito, per citarlo. Libera la mente. Sì, quello c'è la radio, amo la radio perché... Esatto, qui la radio, qui è proprio... noi siamo stati fondati proprio all'epoca di quel glorioso pezzo che non si dimenticherà mai, la radio di Finardi. Siamo stati fondati all'epoca, quindi abbiamo un po' di anni anche noi sulle spalle. Però la radio è questa. Sì, sì. E la radio è un live come questo, chiaramente acustico, in questa dimensione, perché l'acustico è bello, secondo me. Molti gruppi che fanno elettrico, quando cominciano a fare acustico, dicono è bello, vogliamo riprovare, perché l'acustico apre le dimensioni. Sì, sì. Anche se non è facile fare l'acustico, è più facile qualche volta fare l'elettrico. È più facile fare l'elettrico. Esattamente, perché l'elettrico copre. L'elettrico nasconde. Sì, soprattutto se le chitarre sono distorte, sono tanti effetti, certamente. E se l'acustico, questo è. È come fare una foto a colori, un bianco e nero. Vero. Bianco e nero è molto. Adesso ci sono quelle digitali, però, quindi. È molto più facile. Adesso quelle digitali. Bene, facciamo l'altro pezzo, allora, dal vivo. Ah, questo è il primo pezzo dal vivo che facciamo del CD. Ok. Si chiama Semplici Parole. Libri aperti qui davanti, come bianchi panni stesi. La mia mente li contempla, come quasi un muro appeso. Così il tempo si trasforma, segue il suono della voce. Come un fiume tumultuoso, corre verso la sua voce. Spira un po' di più, per sgombrare la mia mente. Chiudo un po' con gli occhi, lascio dolcemente. Fine penso che ti ho scoperto dentro, e alla fine cerco te, non ho altro dentro, e per tutti i miei perché la risposta mia sei tu. E tu sì che sai sognare, dare un senso ai nostri giorni, è la cosa più importante che è vuoto dentro me. L'entusiasmo si fa strada come luce nei pensieri. Il respiro si colora come eravamo ieri. Così il tempo si trasforma, segue il ritmo del mio passo. Corridoi senza fine, proiettati verso il basso. Spira un po' di più, per scambiare la mia mente. Chiudo un po' con gli occhi, rilasso dolcemente. penso che ti ho scoperto dentro e alla fine cerco te e non ho altro dentro e per tutti i miei perché la risposta mia sei tu. E tu sì che sai sognare, dare un senso alle parole, è la cosa più importante che riempie il vuoto dentro te. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questo pezzo live, mi permetto di fare un saluto a tre ragazze che ci ascoltano sempre, che sono la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, nostre affezionate ascoltatrici. Un saluto a loro tre, chiaramente, e parliamo di questo pezzo fatto live da CD praticamente. Com'è l'idea di farlo live, di presentarlo live? Beh, allora, dunque, intanto noi abbiamo scelto di presentare live quei pezzi che potevano venire meglio. Certo, che hanno più, a due chitarre, più accettabili come se, acustico. Diciamo, tutti i brani del CD sono stati arrangiati in maniera abbastanza... tranne uno che è quello che faremo più avanti, che è praticamente anche quello, anche nella versione CD, che è La Casa di Vetro, è un pezzo con due chitarre acustiche e poco più. Gli altri sono molto arrangiati, quindi abbiamo detto portiamo dal vivo quelli che possono rendere meglio con due chitarre. Esattamente, ecco. Perché l'uso della tastiera aveva una certa funzione, qua chiaramente abbiamo deciso giustamente di portare due chitarre, quindi la funzione è quella, l'acusticità. Sì, ripeto, però la tastiera suonata dal vivo è un conto, suonata certo. su multitraccia è un'altra cosa, perché si possono sovrapporre suoni. Quindi, certamente. Quindi anche con la tastiera non è che si sarebbe potuto ricreare sonorità costruite in studio, costruita sì, chiaramente, quindi deciso di far questo, una cosa decisamente apprezzabile, di svilupparlo acusticamente. Certo. Questo sviluppo acustico può essere fonte di un altro sviluppo acustico? Può darsi che nel prossimo disco ci sarà lo spazio per un pezzo totalmente acustico, due chitarre e basta? Sicuramente probabilmente. Molto probabilmente sì, quindi è già un indice di idee che si sviluppano, si allargano praticamente. Sì, sì. Cioè, il discorso che facevi tu prima della chitarra acustica come brani acustici puri, diciamo, sì, è una cosa che stiamo cercando di approntare, sì, di valutare, di inserire nel secondo CD, appunto, che è già in costruzione, che poi presenteremo qualche pezzo più avanti. Alla fine vogliamo appunto presentare due brani del nuovo CD che andremo a produrre il prossimo anno sicuramente. Nel prossimo anno. E quindi la ricerca è quella di tornare un po' fare un passo indietro, cioè ritornare proprio alla matrice. Sì, alla materia. All'origine. All'origine, insomma, cioè dare più spazio a quello che è proprio la cassa della chitarra. Certo, certo. Il suono che proviene dalla cassa della chitarra, che è bellissimo. Esattamente, io vi ho portato un po' avanti, c'è un motivo, Michele lo sa, ma voi non lo sapete, lo sapete in questo momento, c'è il famoso i dischi da portare su un'isola deserta che dovete scegliere, stavolta ne facciamo tre a testa da portare su un'isola deserta, a vostro piacimento, gli artisti che volete, cosa da portare, da salvare un'isola deserta, che non è l'isola dei famosi, ma è l'isola di Rock Wave. Chiaramente. Parti tu, Gianluigi. È una cosa che io dovevo avvertire prima, però il pathos della trasmissione è anche questo: non avvertire mai gli artisti, avvertire solo all'ultimo secondo, quindi alle 23 o quasi. Dimmi. Allora, prima di tutto, immagino quello che ho detto prima, è ovviamente un disco dei Beatles. Ci vuole. Ma puoi scegliere uno oppure tutto il repertorio Beatlesiano? Facciamo uno, puoi scegliere o Revolver o Sgt. Pepper o Rubber Soul. Se potessi sceglierei una compilation. Una compilation, quella fatta rossa, fatta da me. No, una compilation, fatta da me. Fatta da te. Ecco. Ok, una compilation. Okay. Con dei brani che mi piacciono di più, adesso non possiamo dire tutti se no. No, chiaramente no. Bene. Poi poi è difficile, ce ne sono tanti, potremmo andare sugli Eagles, per esempio. Corda degli Eagles, Hotel California o quelli prima? Hotel California. Che è il disco di maggior successo degli Eagles. Anche io preferisco Desperado, personalmente. Desperado è un grande brano, ecco, però l'album... Desperado è stato uno dei miei pezzi prediletti negli anni 70. Esattamente. Ho sempre così, diciamo, prediletto la musica melodica, soft, ecco. Ecco. Sento che stavo partendo. Michele ha scelto Hotel California, penso, mitico, ecco. Mitico. Se sai perché mi piacevano gli Eagles di Desperado e anche quelli primi? Perché erano prodotti da Jackson Browne. Il primo album è stato prodotto da lui. C'era lui che gli dà. Dopo, chiaramente, gli Eagles sono diventati fenomeni straordinari. Però era prodotto da lui i primi due dischi. Il primo, soprattutto il primo, il secondo no. Ma il primo sì, aveva questa influenza. Poi, chiaramente, sono andati avanti, sono diventati dei personaggi acclamatissimi in tutto il mondo. E sono venuti intorno un anno e mezzo fa qua in Italia. E hanno riproposto hanno fatto un doppio album, vi ricordate, un anno e mezzo fa, che ha riscalato dopo tanti anni, ha riscalato le classifiche americane. Hanno fatto anche un concerto. Hanno fatto un concerto a Roma. Un concerto in un turno europeo. Sì, esattamente, sono stati in Italia, grande successo, perché anche gente li ha visti, il mito non tramonta mai, avevano sempre certe cose da dire nonostante che abbiano suonato dappertutto per tantissimo tempo, il mito non tramonta mai, non c'è niente da fare. Ok, erano i Eagles. Poi... E poi, cioè per me è molto difficile fare una cena. Lo so che è difficile, ecco, però forse la... Cat Stevens, di cui dopo dovremmo suonare una cover. Di ecco. Cat Stevens cosa preferisci? Il primo periodo o tutto? No. Il secondo periodo. Quello di Wild World e di Falcon. Quindi Tease and the Falcat, Tear for Tillerman, i due dischi epocali. Tear for Tillerman, sì. Esattamente. Ecco. Questi sono i tre dischi. Sì, i tre momenti scelti così al momento, volutamente una scelta a momento. Molto difficile. Lo so, volutamente al momento. Franco, tocca a te. Io ci ho pensato un po' di più. Sì, sei stato fortunato. Hai avuto qualche minuto la presenza, ma hai qualche minuto di più. È più anziano, quindi. È più anziano, vabbè. Ma io ne porterei più di tre se potessi. Vai, facciamo però 5. Però diciamo, dai. Io porterei The Dark Side of the Moon di Pink Floyd. Ci fermiamo un secondo. Come mai The Dark Side of the Moon e non Atom Heart, ma da chi io amo alla follia, oppure Animal, oppure The Wall? Perché The Dark Side of the Moon? Per un motivo molto semplice. Dimmi. Allora, io ho un fratello di 8 anni più anziano di me. E lui negli anni 70 suonava su un gruppetto e io in camera ho visto la prima chitarra elettrica della mia vita, diciamo, e da lì, e lui ascoltava i Pink Floyd e io a 9 anni, 10, ascoltavo The Dark Side of the Moon. Eri molto precoce come ascolta, sì, decisamente. L'ho imparato a memoria, ogni singola nota, passaggio. Era meraviglioso. Cioè, non l'avevo in testa. Era meraviglioso tutto. Cioè, a 9 anni avevo in testa quel disco là. Cioè, quindi per questo ho detto... Ci ha nominato appunto questo pietra miliare di Pink Floyd, della musica pop rock, insomma, degli anni 70. Certo, pietra miliare di tutto, secondo me. Sì, sì. Se è consentito. Questo motivo qui. Certo. E, come secondo disco porterei Wish You Were Here, sempre di Pink. Sì, sì. Come mai? Questo perché è venuto subito dopo. Questo omaggio a Syd Barrett. Sì, sì, anche perché da lì poi ho scoperto Syd Barrett. Sei tornato indietro. Sì, allora. E poi sono tornato precipitosamente indietro a ascoltarmi tutto quanto di Pink Floyd. I primi album barrettiani. Sì, compresi bootleg, che ne ho tanti a casa, quindi eccetera. Ecco. Poi... E quindi i bootleg anche te, sì, sì, sì. Una volta si usavano i bootleg, lo sapete, sì, sì. Era una cosa da collezione, sì, sì, adesso sì. Ormai non serve più, ma una volta era una collezione, sì, sì. Dischi pirati, sì, perché volevo sentire cosa faceva Gilmour dal vivo e quindi tutte le varie sfaccettature appunto di concerti loro, che non erano un granché, però i bootleg erano incisi male, malissimo. C'erano rimbombi, volutamente. C'è un famoso live a Pompei che erano stato fatto 40.000 bootleg per quel disco. Poi è stato inciso ufficialmente per chiudere la matassa. Ecco, come terzo disco porterei uno delle orme. Quale? Una raccolta. Le orme, quelle originali, quelle sì, di collage, di Fellone Sorona, di Gioco di Bimba. Sì, sì, sì. Proprio anni 60. Tu hai parlato di progressive a microfoni spenti. Le orme Fellone Sorona era un disco assolutamente progressive. Sì. Prodotto da quel genio di musica pseudo inglese. Sì, loro avevano un'influenza Pink Floydiana. Esattamente. E sono riusciti a fare dei capolavori, cioè Aldo Tagliapietra. Certo. È stato una mente, diciamo, paragonabile, secondo me, a degli artisti internazionali, non assolutamente. Ma Fellone Sorona è un i testi sono favolosi, la musica stessa, sono colonne sonore, certo, secondo me. E poi sono stati i primi, lo sapete, probabilmente lo sapete voi, che sono andati con una Renault rossa, sono partiti da Marghera e sono andati all'isola di White. Sono partiti da Marghera e sono andati all'isola di White con la Renault rossa, perché anche loro volevano respirare quell'aria dell'isola di White, cioè 1969-70. Quindi Filone Sorona. Sì, sicuramente, se posso aggiungere un quarto disco... Vai. Potrei aggiungere uno di Jethro Tull. Quale di Jethro Tull? Busting Out, quello dal vivo. Quello dal vivo, non Figures of Brick oppure Aqualand. No, quello lì dal vivo. Quello dal vivo. L'hai visto qualche volta il nostro caro amico John Anderson? Sì, l'ho visto 15 anni fa al Parco Nord di Bologna, che ha fatto un concerto, ero lì proprio sotto il palco. E sono stato tremendo. Sì, incredibile. Era tremendo. Io ricordo che lanciava il flauto in alto, poi lo riprendeva. Sembrava quasi un giocoliere, diciamo. Io l'ho visto a Padova all'epoca dei Figures of Brick. Siamo arrivati 5 ore prima per andare al Palasport e già 5 ore prima c'era la coda per entrare. Sì, sì. Una roba incredibile. Erano tempi gloriosi, erano tempi molto gloriosi, se mi è consentita l'espressione. Sì, erano altri tempi. Erano altri tempi, ma molto lontani, nonostante che la musica non ha confini, non ha tempi, però all'epoca di Jethro Tull è un gruppo straordinario. Sì, sì. Grande lui grande che fa, rifà, distrugge, ricompone. Lui è Jethro, c'è poco da fare. Jazz, rock, pop, tutto, rock, ha fatto di tutto insieme, cioè un tutto. Mix di cose meravigliose. Rock and roll, certo, anche blues cioè, il folk quello anche natalizio. A proposito, adesso sta arrivando Natale, Christmas Song numero 1, Christmas Song numero 2, pezzi meravigliosi. Ok, abbiamo concluso. Hai finito con i dischi? Sì. No, perché sennò vorrei portare qualcun altro. Non so, parliamo di Tangerine Dream se vuoi, parliamo dei Rush, parliamo degli If, non so se hai mai sentito. Sì, certo, parliamo di una serie di gruppi che magari non sono tanti, non sono stati tanto conosciuti, no, ma io devo ringraziare mio fratello per questo. Ti hai fatto conoscere. Io sì. E dopo tutti i cantautori italiani, certo, che non abbiamo citato, Bernardo, stasera non abbiamo citato i cantautori. Gregori, ok, sono le 23:06. Cosa abbiamo in scaletta? Mettiamo sulla traccia numero 6 da disco adesso, cosa dite? Sì. Che okay, questa è veramente in inglese. Questa è la numero 4 sarebbe in... No, ma abbiamo deciso da fare la numero 6. Sì, facciamo la 6. Facciamo la traccia numero 6. Facciamo la 6, cioè che è Rise Above. Esattamente. Rise Above. Okay. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Hoping you get to know Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci, la nostra fotografa sempre di fianco, è sempre predisposta a fare le fotografie. Abbiamo sentito il pezzo in inglese e io, sentendolo adesso, proprio adesso mi è venuto in mente questo. Un finale leggermente progressive, un po' così, c'è qualcosa che spinge in quel ramo del lago di Como oppure no? Sbaglio. Sì, beh, sì, la risposta può darla a lui, appunto, che ha questo. Ma anche la puoi dare anche te, visto che hai usato le tastiere. Al finale, anche qui, come nel brano prima, è sostanzialmente di una sola chitarra elettrica. Sì, però con le tastiere. Con le tastiere, certamente, che fanno certo sempre da sfondo, che fanno un dimmi. Un certo, sì, comunque parla lui perché Franco, solo no, suo, quindi... cioè, diciamo la solo, sì, è mio, però se non hai la tastiera sotto che ti fa... Chi ti sprona, sì, ti dà una mano. Non direbbe niente da solo, sì, chiaramente, come, però insomma, c'è tutta una costruzione come la canzone di prima, è la stessa cosa, cioè il finale che trascina sul... sul ritornello, sugli accordi del ritornello, perché chiamava così. Certo, ma è il fondamentale è il tappeto di tastiere che fa Gianluigi, chiaramente, e tu la ti natura, inserisci. Sì, con chitarra distorta, diciamo, e solo nelle più classiche delle maniere, certo, insomma. Cosa c'entra la chitarra distorta con il tuo idolo Steve Woo? Cosa c'entra la chitarra distorta con l'idolo niente, di Steve Woo? Con niente, yes, niente. Non c'entra niente. No, cioè Steve Woo è un'altra cosa. Sì, mi sono dimenticato prima di aggiungere un quinto disco, diciamo, quello da portarmi in isola del mare. È un disco di Yes. Yes, un chitarrista simile. Bravissimo, grandissimo. Cioè, ascoltatevi un disco degli Yes per capire tante cose della musica, voglio dire, al di là, senza togliere niente agli altri, perché non è una competizione, no, diciamo, assolutamente. No. Però Rick Wakeman, Steve Howe, la voce inconfondibile di John Anderson, cioè, basso Rickenbacker suonato da Chris Wilde, cioè, mamma mia, bassista sì, e comunque due mostri, cioè Rick Wakeman è un mostro, io ricordo di Rick Wakeman, non so se sei d'accordo Gianluigi, le sei mogli di Enrico VIII, mamma mia, sei mogli di Enrico VIII, come le ha immaginato alle tastiere le sei facce delle sei mogli di Enrico VIII, una cosa incredibile. Disco epocale, studio. Wakeman è un grande tastierista. Non è Emerson, chiaramente. Emerson aveva un altro modo di suonare, più di danzare. Era più didattico. Wakeman, meno impulsivo. Però, ragazzi, suonava in modo incredibile. Erano dei mostri sacri. Ma ritornando ai vostri dischi, al vostro disco, quindi abbiamo sentito questo pezzo in inglese, come tu giustamente hai detto all'inizio di trasmissione, questo intervallare tra i pezzi in italiano e i pezzi in inglese, perché va bene così. Sì. L'idea è stata questa. L'idea è stata questa, così, perché noi li abbiamo fatti anche tutti in inglese, però siccome sono venuti fuori alla fine dei testi italiani validi, che li abbiamo ritenuto validi, abbiamo pensato di metterne dentro anche quelli. Ci hai dato una mano anche te i testi o li fa quasi totalmente Franco? No, dato è una cosa di gruppo. È una cosa di gruppo, certo. Esattamente, è una cosa molto positiva. Sì. 23:15, adesso facciamo un mio amore musicale. Che ho sempre amato, un musicista che ho sempre amato, si chiama Cat Stevens, una cover meravigliosa di un pezzo incredibilmente, un mito, un pezzo che non morirà mai musicalmente parlando, secondo me. Te la dedichiamo. Ok, ti ringrazio. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's a fault, that's so much you have to know. Find a girl, settle down, if you want you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. Take your time, think a lot, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do it turns away again? It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. It's not time to make a change. Just relax, take it slowly. You're still young, and that's your fault. That's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want you to marry, look at me, I am old, but I'm happy. All the time that I try, keeping all the things I knew inside, it's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them, they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Blue Radio. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. C'è poco da fare. Fa sempre emozione, anche mi viene la tosse. Ma sempre emozione sentire un pezzo di Cat Stevens. Pezzo del 1972, un pezzo ancora attuale, un testo attualissimo, un testo forte, un testo potente, un testo che fa riflettere. Grande Cat. Scritto assieme alle armonie, sono state fatte da Alan Davis. Parlavamo prima a microfono spento chi era Alan Davis. Era un chitarrista straordinario che era amico di Cat, che ha inciso assieme a Cat 3-4 album, da cui il famosissimo Catch Bolt 4, Carica il toro alle 4, ricordate, no? E dove c'era la famosa Sitting, quindi chiaramente. E Alan Davis faceva le armonie, i giri acustici, aveva una formazione straordinaria. C'era Jerry Conway alla chitarra, alla batteria, c'era lo sconosciuto Peter Gabriel nel primo disco, suonava il flauto, c'era lo stesso Rick Wakeman alle tastiere, quindi un insieme di grandissimi musicisti sconosciuti all'epoca. Cat Stevens 1972, Fire and the Sun, è la versione di Revival. Complimenti, un pezzo grazie, meraviglioso, un pezzo che dà sempre emozione, cosa dite? In qualsiasi momento senz'altro si può, in qualsiasi momento si possa sentire, in qualsiasi epoca, in qualsiasi giornata, in qualsiasi ora. Intramontabile. È intramontabile, hai detto una cosa giusta. È intramontabile, non morirà mai. No. Esattamente. Bellissimo. Ok, sono le 23:20. In scaletta vi facciamo riposare. Volete suonare un altro pezzo live direttamente? Cosa dite? Come? Beh, facciamo sentire allora, facciamo sentire il pezzo numero 4, numero 4, che sì, era Rain, mi pare. Anche questo in inglese. È in inglese Rain, questa Rain, pioggia, sì. Ma parliamo dopo della pioggia. Sentiamo sì, prima il pezzo, ok? Sì, sì. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Rain on me, all I see is just a winter tree standing alone. Rain on me, all is this sweet melody for meeting you. just a message sent to you, just to make you look all inside you. I could be one to fall, or like the snow rain without you. Stardust keeps falling on steel, just like all the words I write for you. It's all I've got to show, to make you know I care. This is just a message sent to you, just to make you look all inside you. I could be waterfall, or like the snow rain without you. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito quindi Rain, che questo è il pezzo in inglese. Giustamente Gianluigi, mentre il pezzo andava, ha detto è un pezzo romantico. Certo, è un pezzo romantico, anche nel modo di cantare, anche l'approccio di cantare, è romantico, perché cioè, si adatta alla canzone che è tipicamente romantica, insomma. Esattamente, quindi queste tastiere che ti catturano e questa chitarra che non è particolarmente invasiva stavolta, no, Franco. No, no, qui si è lasciato spazio proprio al folk. Mm. E, infatti sono note semplici, diciamo, in armonia con gli accordi, con il riff della canzone, diciamo, no, non c'è niente, non ci sono passaggi particolari, perché non servono in questo brano qua, non è richiesto, insomma. Sì, deve essere così, Gianluigi, sì, ti ha fatto il tappeto, una traccia, sì, un tappeto, sì, e poi tu l'hai non sei andato oltre, sei rimasto nel percorso. Cioè, ho seguito la melodia e basta, appunto, insomma. Ed era giusto che sia così, perché questo deve essere un pezzo romantico, e la traccia numero 4 mi pare, 4, è quasi al centro del discorso, non sembra, cioè, molte volte chiedo ai musicisti che intervisto, ma perché avete messo questo pezzo qua, perché avete messo questo pezzo qua, perché loro mi spiegano perché era così, doveva essere così, quella traccia in quel momento là doveva stare qua. Può darsi che sia anche il vostro genere, caso. Genere, la motivazione è quella. È quello. si pensa che la progressione del disco debba essere quella. Sì. Certo, una cosa molto positiva, avete messo i numeri delle tracce, che spesso capita, volentieri, noi poveri DJ, soprattutto i registi, non vedono mai il numero delle tracce, trovano, cioè, c'è difficoltà a capire, senza numeri c'è poco da fare, che visivamente le tracce si riconoscono subito con i numeri, è una cosa positiva, secondo me, al di là di questa battuta. Sì, è quindi un pezzo costruito perché doveva essere un pezzo romantico, musicalmente, non musicalmente potente, ma musicalmente delicato, che ti avvolge, che ti porta avanti, sono praticamente. Tra l'altro viene dopo due brani in italiano. Esattamente. Cioè, e quindi, anzi, sì, tre brani in italiano, e abbiamo iniziato appunto nel disco a mettere dentro questa, in modo da avere questo mix, diciamo, iniziamo il mix del CD. È una cosa, come abbiamo detto prima, è una cosa positiva questo intervallare italiano-inglese. Sì, sì. E il prossimo disco come sarà, la stessa cosa oppure sì, no? Sì, la stessa cosa. Forse conterrà più pezzi inglesi. Ecco. Più pezzi inglesi che italiani. Che musicalmente attirano di più, secondo te? Questo è difficile, dipende dal pubblico. Dal pubblico, chi lo sente praticamente. Probabilmente un pubblico giovane si apprezza più i pezzi inglesi, quello meno giovane apprezzerà più. Dipende, poi ecco. Dipende, non tutti. Esattamente. Ecco. Dipende, ecco. Chiaramente. Ok, sono le 23:28. Mi pare giusto adesso il momento di suonare. Cosa avete deciso di fare? Un pezzo in italiano, per me? Uno in italiano. Che sì. Sempre fa parte di Essenza, praticamente. Dell'essenza. Sì, questo è molto, molto significativo, sempre dal punto di vista delle emozioni, dell'interiorità, della ricerca interiore. Insomma. Perfetto, adesso lo sentiamo assieme. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Il suono di una chitarra fascina nuove emozioni, e non sentirsi mai soli con le note e con le canzoni. Sono messaggi di pace troppo spesso inascoltati, possono poi rimanere solo sbiaditi ricordi. È una leggenda scritta, una frase mai detta, è una stradina dritta che porta verso un campo con i fiori, dove c'è la casa di vetro. Tanti colori si vedono da fuori, di tanti colori. Guardo dalla mia finestra, nell'aria densa di pioggia, il movimento di nuvole, certo non sempre volute, sono comunque i colori di un universo vivente, non sempre assecondato e anche non sempre presente, e corro in mezzo al campo dove c'è la magia, verso il sole che ride e nei suoi grandi occhi c'è riflessa su di me la casa di vetro. Tanti colori, ricorda i sapori dell'alba di ieri. E ora che sono cresciuto, ricordo giochi all'aperto e il profumo dell'erba, capotto dal sole di maggio. Forse non è mai tardi, forse c'è una speranza che si può ritrovare dentro la casa di vetro. E corro in mezzo al campo dove c'è la magia, verso il sole che ride e nei suoi grandi occhi c'è riflessa su di me la casa di vetro. Tanti colori, ricorda i sapori dell'alba di ieri. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Si hanno girato anche le pagine anche loro, come i musicisti, come si rispettano, i musicisti che si rispetta devono girare le pagine. Sì, beh, che dobbiamo coordinarci, insomma, esatto. No, è giusto che sia così, non possiamo improvvisare. Bisogna girare le pagine. Di solito ai musicisti è qualcuno che gira le pagine. Qua no. Qua, beh, avete girato le pagine, tutto in diretta, tutto dal vivo, con le telecamere, con le webcam, per la verità, curate da Roberto Baldi e da Sergio Bortolami. Ok, la casa di vetro ha un sacco di immagini, mi pare, questo pezzo. Sì, sono immagini un po' simboliche, un po' nostalgiche, un po' nostalgiche, certamente. Un po' tristi, posso dire un po' tristi? Sì, è un po' malinconico. Un po' malinconico questo pezzo. Come mai l'avete creato leggermente malinconico stavolta? Beh, gli altri non sono tanto malinconici, malinconici, però questo è un po' di più rispetto agli altri. È una mia sensazione. Sì, sì, no, ma è una sensazione completamente esatta. È venuto così. È venuto un pezzo molto... sì, nostalgico, come hai detto, e profondo. Ecco, possiamo dire è profondo, anche il testo, ecco. Non è messo a caso, il testo descrive determinati momenti, determinate immagini, determinate sensazioni per far capire determinate cose. Può far riflettere. Può fare riflettere, esattamente, quello è l'importante, perché l'essenza è anche quello. Sì. Deve fare riflettere, non deve essere buttato così a caso, no. È no, tutto... e ha un certo senso tutto quanto, i 10 pezzi sono quelle cosiddetto concept. Sì. Cioè, non vorrei che fosse trasmessa l'idea che fosse tutto calcolato. No, assolutamente no. Diciamo che segue una linea del CD, cioè nel suo interno ci sono, diciamo, dei pensieri, dei ricordi, delle cose che vengono anche soprattutto dall'interiorità. Certo, vostre, praticamente vostre. E una cosa devo chiedere, scusate, vi devo chiedere, che questa, ci sono stati dei pezzi più vecchi o meno vecchi nell'ambito dei 10? In che senso? Che cioè, come anzianità di scrittura, sono stati scritti prima o sono stati scritti dopo? Beh, certamente sì, c'è stato un susseguirsi. Sì. Il pezzo più vecchio dei 10, per esempio. Cioè, il primo che è stato scritto di questo album. Sì, di questo album. Forse Rain. Forse è stato Rise Above. Quello abbiamo sentito Rise prima, chiaramente. Sì. Cioè, quindi Rise Above dopo Rain. Avete già scritto in inglese come primo pezzo. Sì. E poi l'inglese siete passati all'italiano, praticamente. È una cosa interessante, perché spesso e volentieri chiedo alle band se quando fanno un CD, questo è il vostro primo CD praticamente, sì, l'inizio, se è una specie di greatest hits, cioè hanno raccolto i pezzi più significativi e hanno deciso di inciderli così. E anche il caso vostro, avevate altri pezzi chiusi nel cassetto che avete detto no, non stanno bene in questo disco, oppure no? Beh sì, cioè, ne avevamo uno che darà probabilmente il titolo del prossimo quindi album, è pronto che, per fare un discorso diverso, sì, cioè discorso... Sì. Che quello è stato il primo che abbiamo fatto, il viaggio, che non lo faremo stasera, però... È il viaggio, il prossimo disco praticamente? È il prossimo disco, sì, quello è stato il primo in assoluto, però poi l'abbiamo messo da parte per motivi vari, che insomma stiamo... di cui non stiamo a discutere, però sì, l'avete tenuto buono per Sì, l'abbiamo tenuto buono per un prossimo... è giusto che lo reincideremo, perché avevamo fatto già una preincisione, ma lo rifaremo. Sì, sì, beh, avete, cioè una preincisione avete già fatta, cioè l'idea era già stata sviluppata, sì, però non era completa. Era qualcosa non andava, o qualcosa che doveva. Per una serie essere... di motivi abbiamo ritenuto di non metterlo dentro nel primo CD e di metterlo invece in un secondo. Certamente. Ok, sono le 23:37. Io proporrei di farsi un altro pezzo dal disco che piace a me particolarmente. Che è la traccia numero 5 del The Research, mi pare che è quella. Sì, sì, sì. Che mi ricorda molto il grande, grande vecchio Cat Stevens. Ma adesso ne parliamo dopo. Lo sentiamo prima, ok? Va bene. Rock Wave, rock wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Eyes are obscured by the storm of clouds above me. My mind is looking for something alive. My hands raise the water to quench my thirst at once. My arms are moving fast to all the sky. Can't remember. Radio. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, velocissimamente spieghiamo quel pezzo perché abbiamo poco tempo e l'idea nostra è di fare dei pezzi anche live, chiaramente per concludere. Perché questo è un pezzo molto significativo, un bel ritmo, un bel accordo. Mi ricordava il vecchio Cat inizio di carriera, anni 60. E il riff è nato per caso, mi dicevi Franco, con Gianluigi prima. Sì, io ho rispolverato un vecchio giro di accordi di una canzone e siccome ritenevo che era abbastanza melodica, abbastanza si poteva fare qualcosa, ed ero quasi convinto, ero convintissimo che Gianluigi piaceva questa cosa. Infatti gliel'ho proposta e da lì quasi distinto è nato questo brano. Infatti Gianluigi siamo subito all'opera con la tastiera e siamo riusciti a comporre questo brano che secondo me è abbastanza significativo, abbastanza importante all'interno, non che gli altri non lo siano, però questo è un brano che cattura sonorità proprio un po' Pink Floydiane, sì, un po' anni 60 eccetera, e siamo riusciti a fare questa canzone insomma molto bella. Secondo me sì, è venuta molto bene, sono molto soddisfatto. Difatti cantata molto bene, sì, anche da Gianluigi, che la supporta molto bene, molto cioè, bene, la voce è proprio il centro del discorso, gli altri strumenti che supportano la voce, e ha fatto un'ottima interpretazione. Adesso scegliamo la title track, come si dice, si diceva così, la title track, cioè il titolo al disco, si chiama L'Essenza, che non ha nessuna parentela con quella di Claudio Rocchi, che faceva musica etnica. Questa è la vostra essenza, il vostro cercare fra di voi, il vostro interiore. L'Essenza, quindi, da parte dei Revival. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Sentimento, sento gli echi di antiche muse che scacciano paure astruse. Prendo il mondo nelle mie mani, proiettato verso domani. Orizzonti di cielo perso si aprono nel mio universo. E ti sento che sei più lontana che mai. E lo so che non hai le risposte che vuoi, perché tu cerchi in me quell'essenza che sai troverai solo se cercherai. Fra buio e luce l'essenza che piace a te, apri di fiducia l'essenza sogno dove. Tra buio e luce, l'essenza che piace a te, quello che nuoce, l'essenza scaccia da te. Sento il sole che scalda dentro, che riaccende il mio sentimento. Sento gli echi di antiche musiche, scacciano paure astruse. Prendo il mondo nelle mie mani, proiettato verso il domani. Orizzonti di cielo perso si aprono nell'universo e ti sento che sei. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Facciamo così. Ok, ci siamo, abbiamo sentito la title track mentre il pezzo andava nella nostra discussione amichevole. Era un pezzo decisamente un po' diverso, con un testo importante ma con una musica un po' divertente, accattivante, scaccia pensieri, possiamo dire questo, anche se il testo ha una certa importanza, si chiama l'essenza, quindi una cosa che scava dentro. È il brano che dà il nome al CD, c'è la title track. Sì, sì, esattamente. Riassumo un attimo anche questa. È un testo studiato per chi si concentra un attimo a sentirlo, no? Anche questo sono, diciamo, frasi, diciamo, i pensieri messi giù con una certa linea, cioè una certa, diciamo, componentistica, si può usare questo termine, di idee, di pensieri, di sensazioni. L'essenza è la base della vita, la base di qualsiasi decisione che si può prendere nella vita, e l'essenza è riferita a volersi bene, a provare determinate sensazioni, sì, a ricercare un qualcosa, qualcosa che va oltre le emozioni e le sensazioni. E poi c'è anche questo rapporto con una ipotetica lei che invece non capisce questa cosa, insomma, ecco, sì, c'è questo, c'è questo, questa contrapposizione, rapportarsi con una, esattamente, quindi c'è sempre, diciamo, anche qui c'è comunque un elemento di rapporti di coppia, quindi il romanticismo anche qui, se vogliamo, no? Ecco, poi come dicevamo prima, mentre eravamo in onda, c'è questa contrapposizione tra il testo, la profondità del testo e un po' la gioiosità, dell'arrangiamento, del ritmo, un brano che va veloce. Sì, esattamente, ecco. che fa muovere. Che fa... Sì, ecco. Esattamente. Abbiamo voluto anche per creare un po' un, sì, qualcosa di diverso. Esattamente. Ok, 23:50, adesso concludiamo suonando tutto dal vivo. Sì, non abbiamo tanto tempo, io... direi, allora potremmo fare questa cover dei Beatles che avevamo preparato, è una delle poche cover che anche sul disco originale è abbastanza acustica, che si chiama Ten Sweet Sides Today, e poi potremmo, penso, direttamente concludere con gli ultimi due pezzi del brano, sì, che deve ancora uscire. Sono una new entry assoluta. Sì, sì, sono esatto. Due anteprime. Perfetto, ecco, perfetto. Allora, adesso sentiamo i Beatles. Dovremmo starci. Adesso sentiamo i Beatles prima. Sì. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me, somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. You say you'd be mine, girl, to the end of time. This day is such a kind, girl, seems so hard to find. Someday when we are dreaming, deep in love, we'll have a lot to say. Then I will remember things we said today. Being just a lucky kind, love to hear you say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one, love me all the time, girl. We go on and on. Someday when we are dreaming, deep in love, we not a lot to say. And I will remember things we said today. Being just a lucky kind, love to hear you say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine, girl. Be the only one, love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, that I will remember things we said today. Blue Radio. Blue Radio. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Ok, 23:54, siamo alla conclusione, adesso faremo sentire due pezzi assolutamente inediti, due new entry, si può dire così praticamente, sì. Tratte dal nuovo disco A Page of Life e Come to Me. Io ringrazio i Revival che sono venuti qua a suonare, che hanno presentato il loro CD L'Essenza, 10 pezzi di musica assolutamente loro, quindi inedita al 100%. È stato un bel viaggio, è durato quasi 2 ore, non so, io sono stato molto soddisfatto, spero anche voi, anche noi, certamente. E anche gli ascoltatori che hanno ascoltato, una musica romantica, pop, una musica pop con delle variazioni, questo è importante. Grazie a Michele Ottoson in regia, grazie a Roberto Baldi e a Sergio Bortolami che hanno curato le webcam, dobbiamo stringere, vi salutiamo, la prossima settimana avremo un gruppo di Cittadella. Salutiamo i nostri ascoltatori con due pezzi inediti, quindi A Page of Life e Come to Me. Buonanotte a tutti e grazie. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. A Page of Life. You and I, united this way. In this sky, in this sky, I've been remembering all what's gone. Eyes. In this air, in this air, and I breathe in the air, and I scream in my love for you. But time cannot delete your sweet, sweet imagine. Time runs with us. How many times you have written in my mind. Don't worry, I'm here. And on the page of life, we have found wonderful days. Our hands full of energy on this green, on this ground, on this ground, on and on. The hope is strong. I ring. Never you, only you, only you. And I breathe in the air, and I scream my love for you. And time cannot delete your sweet, sweet imagine. Time runs with us. How many times you have written in my mind. Don't worry, I'm here. And on the page of life, we have found wonderful day. Come to me, you will find a way, and you will change your dream. Come to me, turn your simple hope to safe steps in the air. Come to me, whiten my sweet reader. You can mirror without fear. Come to me, stay with me. We will have no longer to climb away. We will live our life day by day. Just day by day. You know the words that no one ever said. You know the colors that no one ever drew. Your time will be caressed by a new breeze, a cool breeze restoring your dreams. Come to me, find a simple hope to set steps in the air. Come to me, and you will know the real rhythm on the hill. Come to me, whiten my sweet river. Use no way to ride and hide. Come to me, stay with me. We will have no longer to climb away. We'll live our lives day by day. Just day by day. You know the words that no one ever drew. You know the colors that no one ever drew. Your time will be caressed by a new breeze, a cool breeze restoring your dream. Come to me, you will find a way, and you will change your dreams. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock.